Ruota libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra Schepisi. Buon pomeriggio, buona domenica, in viaggio in bicicletta alla scoperta delle spiagge più belle del Salento e poi alcuni itinerari fuori porta partendo da due città, Torino e Milano. Oggi parliamo di vacanze sulle due ruote, anche brevi, alla portata di tutti, qualche idea magari per quest'estate o perché no anche per la stagione autunnale. Allora partiamo dalla Puglia con Roberto Guido. Ciao Roberto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Roberto Guida, autore della guida appena pubblicata da Ediciclo in bici sui mari del Salento alla scoperta delle 20 spiagge più belle della Puglia. Giornalista, ma soprattutto pugliese e cicloesploratore per passione. Sì, sono i miei luoghi, il Salento è la mia terra, io vivo a Lecce e ho scritto questa guida mettendo insieme il binomio mare e bicicletta in una terra che accoglie questi due elementi con estrema naturalezza. Qui non troverete certo le piste ciclabili stile olandese, si trovano invece una rete di strade secondarie rurali bellissime che sono a misura di bicicletta, che sono a bassa frequentazione da parte delle auto e quindi sono a misura di bicicletta senza grandi dislivelli, e il mare è l'altro elemento che fa parte di questa terra, con oltre 250 chilometri di costa da Lecce sino a Manduria che si ripercorrono in questa guida, andando a scoprire non solo le mete classiche ma soprattutto le spiagge più nascoste e conosciute solo dai salentini. Ci sono pochissimi dislivelli se non nel tratto di costa tra Otranto il Leuca, dove c'è qualche salita più impegnativa, e se poi si sceglie di noleggiare l'e-bike, allora insomma è proprio un percorso davvero molto comodo. 311 chilometri divisi in 5 tappe, giusto, che poi ciascuno ovviamente può percorrere al proprio ritmo e naturalmente anche in vari periodi dell'anno. Sì, sono complessivamente 311 divisi in 5 tappe. In realtà la quinta tappa è solo una tappa di rientro, tutta nell'entroterra da Manduria a Lecce, per ritornare al punto di partenza, che si può saltare prendendo, e questa è un'altra avventura, treno delle Ferrovie del Sud-Est che poi può riportare alla base di partenza da Lecce. Quindi il percorso complessivo sul mare di circa 250 km. Si possono tranquillamente fare delle tappe più brevi o fare solamente dei tratti, anche perché il litorale del Salento, le coste del Salento sono abbastanza abitate, quindi diciamo ci sono piccoli centri, sono tutti centri molto piccoli, paesi molto piccoli sul mare, dove ci si può fermare tranquillamente, case, casette, strutture turistiche, diciamo tutte a misura d'uomo. Qual è il percorso che ti piace di più, il tratto secondo te più suggestivo? Certamente il tratto di costa tra Otranto e Santa Maria di Leuca, perché è molto vario, si passa dalla Baia delle Orte con la cava di bauxite, una meravigliosa cartolina del Salento, fino al fiordo del Ciolo, una piccola baietta racchiusa fra due costoni di roccia molto alti, si passa su un ponte da cui si può vedere benissimo questa piccola baietta, e poi l'arrivo a Santa Maria di Leuca, a Finibusterre, dove diciamo la suggestione dell'incontro tra lo Ionio e l'Adriatico, ma soprattutto l'orizzonte aperto nel cuore del Mediterraneo, aprono veramente il cuore. Simu salentini dell'umunno cittadini, radicati all'Ime, sapi, gulli, greci e bizantini, uniti in ciascu stile, oce, gulli, giamaicani, dimme di te due dei castavieni. Non solo spiagge, mozzafiato, scogliere, non solo mare, ma anche cultura. Sì, innanzitutto diciamo c'è molta varietà nel tipo di costa, perché si passa dalle lunghe spiagge fino alle scogliere più ripide, per passare poi alle piccole baiette, piscine naturali scavate, nella roccia. Insomma, c'è un po' di tutto, cioè è veramente molto vario, non è un paesaggio unico. E c'è poi molta cultura, molta storia nel percorso. Innanzitutto, tieni presente che lungo tutto il percorso si incontrano e sono dei punti di riferimento molto belli le torri costiere del sistema difensivo voluto da Carlo V, che ci accompagnano proprio di tappa in tappa. Erano delle torri costiere che erano in contatto l'una con l'altra per difendere il territorio dalle invasioni dal mare. E poi c'è Otranto con la sua storia, c'è Leuca con la sua storia, c'è Gallipoli, insomma c'è veramente tanto da poter vedere se si vuole procedere a passo lento, così come il viaggio in bicicletta consente. E dalla Puglia ce ne andiamo verso nord per scoprire alcuni itinerari cicloturistici a pochi colpi di pedale da due grandi città, Torino e Milano. Ne parliamo con Andrea Orlando, professore di rappresentazione della città e del territorio al Politecnico di Milano, nonché esperto cicloturista, Politecnico che tra l'altro sta studiando come valorizzare questi cosiddetti itinerari di prossimità. Sì, io vivo a Torino e lavoro a Milano da più di 20 anni, quindi conosco abbastanza bene entrambe le realtà. Ma diciamo che Torino ha un vantaggio straordinario dal punto di vista geografico, che è quello di essere attraversata da un fiume importante come il Po, ma di avere altri tre fiumi che sono il Sangone, forse meno noto, la Dora, Riparia e l'Astura. E questi fiumi ci consentono lungo le sponde di percorrere parecchie strade, raggiungere dei luoghi intorno alla città che sono davvero, davvero straordinari. Uno molto vicino può essere quello lungo il Sangone, di raggiungere la palazzina di caccia di Stupinigi. Però sempre lungo lo stesso Sangone ci sono degli itinerari ciclabili già anche predisposti e quindi disponibili già oggi, che portano in luoghi meno noti, come ad esempio Rivalta, che ha un castello anche molto bello. Poi da Rivalta si può proseguire verso la collina morenica di Rivoli. Lo stesso castello di Rivoli si può raggiungere molto bene lungo il fiume Dora, attraversando la città. E questo è anche un aspetto che si può considerare, cioè che non è necessario prendere la macchina e caricare le biciclette per uscire dalla città. Si può già oggi seguire il tracciato di queste strutture geografiche come i fiumi, e lungo le sponde si possono raggiungere luoghi ad una distanza ragionevole, diciamo, e che si può coprire con una gita in giornata. Cioè, se noi teniamo come orizzonte quello di 40-50 km, che vuole dire pedalare davvero a un ritmo molto tranquillo per 5-6 ore, comprese le pause per visitare i luoghi belli che si incontrano lungo il tracciato. Ecco, se noi consideriamo delle gite di 40, 50, 60 km, possiamo davvero raggiungere molti luoghi intorno alla città di Torino. Ci sono altri itinerari che dal centro della città portano fino alla Venaria Reale, ad esempio un itinerario ad anello, che è quello della Corona di Delizie, che consentono tranquillamente, su percorsi protetti, di partire dal centro della città e raggiungere questi luoghi che sono già molto frequentati dal punto di vista turistico, ma raramente vengono raggiunti in bicicletta. Invece qualche itinerario partendo proprio dalla città di Milano, magari da fare in giornata o anche per chi può suddiviso in due o tre tappe. Sì, Milano non ha dei fiumi, almeno non così evidenti come a Torino, però ha i canali, che sono una risorsa già molto, no, molto nota. Lungo il Naviglio Grande o lungo il Naviglio della Martesana ci sono già delle ciclabili che sono perfettamente accessibili, effettivamente un po' frequentate. Io credo che se si vuole dare qualche proposta un po' meno consueta, cercare di raggiungere luoghi molto belli fuori Milano, come possono essere ad esempio il borgo di Corbetta, oppure il borgo di Chiaravalle, e andando verso Melegnano, lungo il Lambro, ad esempio, ci sono luoghi molto particolari. Ad esempio, una risorsa che è poco sfruttata è quella del canale Villoresi, che corre a nord della città di Milano e collega sostanzialmente, prende l'acqua dal Ticino, quasi in corrispondenza del Lago Maggiore, e chiude il suo percorso sul fiume Adda a Cassano d'Adda. E tutto questo tracciato del canale Villoresi è poco frequentato. Percorsi fattibili, insomma, siamo su un chilometraggio abbordabile anche con una bici elettrica magari, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Sono circa 50 chilometri di percorso. Tutti gli itinerari che ho citato stanno tra i 40 e i 60 chilometri di lunghezza, mai di più. Si può naturalmente utilizzare la bici elettrica, e questa è una soluzione sicuramente ottimale. Oppure tutti questi casi che ho citato sono raggiungibili anche in treno. Ci sono diverse stazioni ferroviarie che consentono di accorciare il percorso oppure di ritornare in città attraverso il treno. E noi ci fermiamo qui, riascoltateci se volete su podcast, scriveteci a rotalibera@radio24.it. Buona domenica, alla prossima!